Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Non so quanti anni avete voi, io sono del 74 e sono cresciuto guardando tonnellate di cartoni animati giapponesi. Tutti i pomeriggi accendevo la televisione e vivevo in un mondo in cui la gente si chiamava Tetsuya, Hiroshi, Sayaka, Fujiko. Quasi poi mi stupivo quando andavo a scuola e trovavo i miei amici che si chiamavano Antonio, Giuseppe, Vincenzo, Raffaele, che nomi erano. Poi sono cresciuto un pochino e ho cominciato a guardare i film americani, però anche nei film americani arrivava sempre il vecchietto giapponese che in un mese ti faceva diventare cintura nera di karate, toglievi la cera, mettevi la cera e combattevi contro tutti i cattivi. Poi sono cresciuto un altro pochino e ho cominciato a leggere dei libri in cui, insomma, si voleva fare un po' più gli spirituali e la gente andava comunque in Oriente, in India, trovava se stesso, che io non capivo perché questo se stesso non poteva essere a Milano Marittima o a Scalea, doveva stare per forza in India, e però bisognava andare lì, fare i bramini, fare gli esercizi spirituali, il nirvana, lo zen, insomma, sono cresciuto così, pensando che a Oriente ci fosse un mondo pazzesco, completamente diverso, e che lì si poteva veramente cambiare vita. Non ci sono mai andato e mi è rimasto questo dubbio. Ma davvero si può cambiare tutto e cambiare se stessi andando verso Est? Questo è quello che cercherò di capire oggi. Ecco, fatto. Hai capito? Questo fa il riso imbottito, come facciamo noi a Napoli con i peperoni. Chico, si prende pistole... Si taglia chicco. Ecco, prendi pinza, formichina, formichina dentro chicco, occhiudi, ecco. O prendi budellino, per legale, o se no, o se spavalanza, ecco, e leghi bene bene, ecco, o così, ecco, tili tili, ecco. O tagliale e fa. Ma per preparare la porzione, quanto ci metti? Ah, io prenderle molto tempo perché avere molta pazienza. Era il 1981, questo era il film Delitto al ristorante cinese e ancora si poteva dire, cioè c'era la gente che forse pensava che nel ristorante cinese veramente ti facessero le formiche dentro il riso ripiene, insomma vabbè, eravamo anche forse un pochino più ingenui. Benvenuti, questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. Io sono Achille Corea e oggi andiamo verso Oriente per capire come va lì, se c'è della gente che veramente ha cambiato tutto andando in Cina, in India, in Giappone, e cominciamo sentendo Saro Capozzoli. Benvenuto. Salve a tutti. Saro, tu quando hai preso questo aereo che ti ha portato verso la Cina? È stato all'inizio del 1990, diciamo. Sono qui in Cina ormai da 20 anni circa. È stata una scelta ponderata o è stata una scoperta fatta una volta arrivata lì? No, è stato, diciamo, io avevo cominciato a lavorare fino all'89 appunto in una società del gruppo Eni, mi è stato chiesto appunto di andare in Cina a fare degli incontri, doveva essere 20 giorni, sono diventati 2 mesi e poi alla fine sono ancora qua. Dopo 20 anni. Questo è stato un po', diciamo, questo è stato un po' l'inizio, non pensavo assolutamente di passare quasi la metà della mia vita in Cina prendendo quell'aereo. Qual è stata la cosa che ti ha fatto decidere di rimanere lì? Ma diciamo che l'opportunità come professionale all'inizio, perché appunto era un mercato nuovo, cioè nel senso di poter da giovane venire qui e poter confrontarsi con grandi aziende cinesi, con però anche problematiche un po' particolari a livello tecnico. E poi c'è stato un momento in cui nel 97 ho deciso, quando ho lasciato il gruppo, ho deciso poi di restare, lì è stata la scelta che ho scelto io. Diciamo, ecco, potevo tornare indietro, potevo fare qualsiasi altra cosa in Italia, invece sono rimasto. Ecco, diciamo, 97 è stato poi io lo chiamo il mio primo spartiacque. Quindi hai lasciato proprio quel lavoro e ti sei inventato un'altra cosa? Sì, diciamo, ho cominciato non volendo ricominciare da capo in un altro paese, mi è stata offerta appunto di andare a lavorare in Indonesia oppure in India o tornare in Italia, ho deciso di restare qui. Ho inventato, in quel momento lì c'erano grandi aziende in Cina, in italiane, c'era Fiat, l'Eni, c'era Telecom e altro, non c'erano le piccole e medie aziende. Io ho cominciato a supportare, così mi sono inventato un po' un qualcosa, supportare le piccole e medie aziende italiane nel far business, ma più che altro nel fare ricerca. Ho cominciato così, ricerca e qualifiche di fornitori, perché in quel momento venire a parlare di Cina come investimenti, a fare fabbriche qui o fare stabilirsi per il mercato, io insisto su questo, era impossibile, perché c'era Romania, c'erano paesi più vicini, la Cina sembrava veramente non 10.000 chilometri, era un altro pianeta per l'Italia, no? E quindi ho trovato una nicchia su cui poi siamo cresciuti. Fammi capire, tu la tua vita personale, cioè tu dove ti trovi precisamente in Cina e se sei da solo, hai famiglia? No, io sono a Shanghai, ho cominciato tutto da Pechino, poi vivendo, appunto, i miei primi 10 anni li ho fatti lavorando nei posti più incredibili della Cina, un po' sia come quando lavoravo nel gruppo Eni, ma anche un po' dopo, no? Mi sono trovato a lavorare in posti, diciamo, sperduti in mezzo alle campagne, sulle montagne, gli impianti chimici non si fanno nel centro delle città, delle grandi città, no? Si fanno, mi è capitato anche di lavorare in zone dove neanche segnate sulla mappa. E ora sono a Shanghai, sono sposato, ho una moglie cinese, c'è una mia seconda moglie, che è una mia seconda joint venture, no? Lei è felice di questa definizione? Sì, ma diciamo che è una trattativa quasi quotidiana, perché poi per vivere specialmente con una cinese bisogna avere molta pazienza e, diciamo, bisogna avere sempre dei compromessi quasi quotidiani, no? Che possono essere, sono due culture un po' molto diverse che si avvicinano, e io notate che si vedono semmai tanti giovani coppie miste, ma io vedo poche coppie miste anziane, c'è un motivo, io cerco comunque di arrivarci, no? Quanti anni hai? Io ho 45. Quindi insomma sì, ancora hai tempo. Sì. Qual è la più grossa differenza culturale nella vita quotidiana tra un italiano che va a vivere in Cina e un cinese? Capire che ci si trova in una cultura che non è una cultura, molte volte si viene qui non solo per gli italiani, ma anche molti, specialmente i francesi, si viene qui pensando di trovare un paese da colonizzare o da educare. In verità questo è un paese ben educato dal punto di vista come cultura, anzi sono anche molto diligenti su quello per quanto riguarda la cultura e le tecnologie, e cercare appunto di capire dove ci si trova, di integrarsi per poter crescere, che è un po' quello che ho fatto. E cioè quello che io vedo, che molti parlano della Cina come un problema, non si riesce a capire, non si riesce a crescere, ci sono molti problemi. Sì, è vero, però questo succede quando si vogliono portare qui dei modelli di business o modelli di mentali o culturali che non dico cinesi, ma proprio asiatici. Qui per dire, il fatto di fare poche vacanze, i miei dipendenti fanno 5 giorni all'anno di vacanza, hanno, perché la legge dice questo, no? E questo sembra una cosa incredibile, ma per loro è normale. E molti dei miei dipendenti usano questi 5 giorni per fare corsi di aggiornamento o fare delle certificazioni professionali più avanzate. Ecco, questo penso che molti dirigenti d'azienda e direttori del personale all'ascolto sono lì che si fregano le mani sentendoti. Senti, dimmi una cosa, dopo 20 anni, lascia stare il lavoro che giustamente sarà importante, la famiglia, che cos'è che la mattina andando in giro ti fa essere contento di essere rimasto in Cina? Il fatto di vedere le cose, poter decidere delle cose e vederle realizzate presto. Cioè, noi come azienda abbiamo lanciato dei nuovi servizi che di supporto alle aziende italiane, ma da un giorno all'altro mi è capitato proprio di prendere una decisione nel giro di pochissimo tempo poterle realizzare, no? Ma questo è tutto quello che succede qui, cose che in Italia ci vorrebbero forse degli anni per poter essere implementate. Qui basta avere l'idea, trovare le persone giuste, questa è la cosa più, il know-how che si può avere, e portarle avanti. E si riescono a fare delle cose, tant'è vero che qui quello che io, la mia sensazione, che è poi una realtà, è che un anno di Cina equivale a 4 anni vissuti in Italia. Ed è questo un qualcosa che lo vedo in tutto, il fatto che qui si facciano 1300 chilometri di ferrovia ad alta velocità in 3 anni, noi ci abbiamo messo quasi 20 anni, vi dà proprio l'idea, no? Della velocità, delle implementazioni, del fatto di vedi le cose realizzate, non hai bisogno. Qui in Italia molto spesso quando torno in Italia le cose non, sembrano statiche, restano così, no? Ci si parla addosso, ci si fanno tanti programmi e non si implementano, no? E invece sì. qualcosa che ti ha fatto venire voglia di, ogni tanto di tornare, che avresti cambiato in questo paese? La voglia di tornare, ti mancano un po' gli affetti così, ma diciamo a volte hai bisogno anche comunque di pensare un po' allo spirito, no? Quindi pensare un po' alla cultura, pensare, qui c'è poco tempo per pensare, per riflettere, si va avanti, si riflette poco, no? Nel senso c'è anche il tempo di far questo. In Italia forse il vantaggio è che si può, quando torno ho tempo anche un po' di aggiornarmi, ho più tempo per dedicare alle cose che mi piacciono, alla lettura, eccetera, no? Ecco. Saro, il momento della domanda ingenua, sono davvero così tanti questi cinesi? Cioè uno lo percepisce? Sì, tanto è vero che, vi dico una cosa, c'è una strada qui a Shanghai, la Nanjing Road, la strada di Nanchino, che è lunga 6 chilometri, ci sono nel weekend c'è un tratto di 600 metri dove passano circa 2 milioni di persone in una giornata. Ecco, quindi mi fa capire cosa vuol dire. Infatti io ho pensato sempre, un giorno che dovessi cambiare paese, potrebbe succedere, vorrei andare in un paese dove ci sono poche persone. Io penso alla Finlandia, alla Norvegia, penso all'Irlanda, alla Nuova Zelanda, perché mi manca appunto sentirmi un po' con lo spazio, no? Perché qui dunque si va, è successo l'altro giorno di andare appunto dal dentista e io avevo 600 persone davanti a me. Ovviamente non ho aspettato una giornata, no? Ho aspettato la mia buona mezz'ora, perché c'erano dei saloni con dentro 200 sedie da dentista, quindi io in mezz'ora sono riuscito a sedermi. Però è questo un po', in Italia probabilmente quando vai dal dottore non trovi così tante persone davanti. Questo e, un po', e se li trovi puoi piantare la tenda, ecco. Ecco. Va bene Saro, chiudiamo con la nostra domanda rituale. La valigia e la zavorra. Saro, che cosa ti sei portato dall'Italia? Cosa hai messo in valigia andando in Cina? E questa è una bella cosa. Il mio primo viaggio mi diceva appunto che mancava tutto qui. Mancava, allora si trattava di 20 anni fa, mi sono portato anche il detersivo, lo spazzolino, lo spazzolone di tutto. Avevo circa 80 kg di eccesso bagaglio, mi fai capire che. E quindi ho portato un po' di tutto. Uno che adesso dovesse arrivare qui in Cina adesso per decidesse di trasferirsi, gli consiglierei di portarsi tanti bei libri e tanta buona volontà, ecco, di imparare, di integrarsi per poter crescere, perché questo è un paese che ci offre tante opportunità per crescere. E cosa bisogna buttare? Prima di tutto i pregiudizi verso questo popolo ed essere aperti nel capire una diversa cultura come questa, ecco, di non venire qui pensando di trovare un paese, sì è un paese povero, però un paese povero dove mangiano tutti, dove c'è la televisione ovunque, l'elettricità arriva ovunque e non c'è nessuno che muore per strada come succede in India o in altri paesi che si chiamano del terzo mondo. Quindi bisogna avere l'apertura mentale giusta, che è quella che consiglio a molti di venire quando vengono qua, di lasciare stare i preconcetti, perché c'è sulla stampa italiana anche si dicono molte cose non reali. E molto spesso anche perché i giornalisti secondo me dovrebbero venire qui a imparare il cinese per poter capire e integrarsi con la realtà. Ok, grazie Saro, ti ringrazio per averci raccontato la tua esperienza cinese e in bocca al lupo. Questa scelta di vita è sconsigliata se per voi sushi e sashimi sono due stilisti giapponesi. Il vostro unico approccio con l'Oriente è stato invadere la Kamchatka a risico. Pensate di rendervi simpatici ai cinesi mettendo le L al posto della R. Siete convinti di poter ordinare la pasta in Giappone dicendo arigato? Appena arrivati in India chiedete dove sono le squaw? No, ma dai, non ci sono più quelli così, ormai l'Oriente ci pervade. Io vedo un sacco di gente con gli ideogrammi giapponesi sul braccio, tatuati, sulla pancia, sulle spalle, e mi chiedo sempre, cosa ci avranno scritti questi? Che cosa volevano farsi scrivere? Vabbè, magari uno che potrebbe tradurceli questi tatuaggi è Flavio Parisi, che vive a Tokyo, benvenuto! Ciao, ciao, saluti, ciao Kike. Flavio, da quanto tempo, quanti anni hai e da quanto tempo vivi in Giappone? Allora, io ho 32 anni e ne ho passati 6, gli ultimi 6 qui a Tokyo. Come mai ci sei andato? Io studiato all'università l'India e quindi mi ero molto appassionato all'Asia, alle sue culture, però quando mi sono laureato ho deciso di fare un viaggio in un paese che non conoscevo e allora ho scelto il più lontano che potessi raggiungere e questo paese era il Giappone. E sono arrivato a Tokyo e me ne sono innamorato perdutamente, ho deciso di rimanerci e in men che non si dica sono passati questi 6 anni. Quindi tu dovevi andarci, diciamo, per una vacanza. Come hai fatto a passare da turista a residente? Che lavoro ti sei trovato? Questo infatti è stato il gradino più duro da passare, perché ovviamente sì, finché si arriva da turista è un discorso, ma poi entrare nella società e lavorare, soprattutto prendere il visto, non è una cosa facile. E io per fortuna nella ricerca spasmodica ho trovato una scuola di lingue straniere, una scuola privata, che aveva deciso di aprire un nuovo insegnamento, cioè della lingua italiana, e allora proprio in quel momento mi sono presentato a loro e loro mi hanno accettato e mi hanno chiesto di aprire questo corso e così ho avuto il contratto e con quello il visto e insomma. Tu sapevi il giapponese? No, zero, l'ho imparato così sul campo. Quanto ci si mette ad avere un giapponese accettabile? Come si fa? Il giapponese non è una lingua difficile da parlarsi, almeno per la comunicazione base, però poi per leggerlo e scriverlo possono passare decenni, ecco, per impararlo bene. Incoraggiante. Senti, tu di dove, qual è la tua origine? Di dove sei e che cosa hai lasciato in Italia? Allora, io sono udinese, sono nato e cresciuto a Udine, anche se poi metà della mia famiglia viene dal sud, sono insomma un sangue misto. Quindi questo forse mi ha aiutato ad adattarmi in un posto così con la cultura diversa. E ho lasciato, molti amici, la famiglia. Quello che non ho lasciato è il lavoro, perché io comunque ero appena un neolaureato che si trovava di fronte l'imprevisto e un futuro insomma abbastanza incerto. Come l'hanno presa? Me vado a vivere in Giappone, come la prende la famiglia? Allora, la mamma male, naturalmente, perché pur essendo aperta a un espatrio, però se fosse in Europa mi dice sempre magari ci potremmo vedere qualche fine settimana, invece il Giappone è proprio... E invece poi mio padre, quando sono venuti, diciamo, mi ha invidiato e adesso mi capisce molto bene. Penso che anche mia madre sia contenta, solo che non è contenta della distanza, insomma. Cosa fai adesso in Giappone? Continui a insegnare a Tokyo? Allora, l'insegnamento l'ho un po' ridotto come tempo che gli dedico, perché in realtà mi sono lanciato in una serie di attività completamente freelance, tra cui c'è l'insegnamento della cucina italiana, cucina casalinga, così, dei corsi che faccio qui a Tokyo, poi l'attività di giornalista freelance, quindi scrivo degli articoli per riviste italiane e giornali, qualche traduzione dal giapponese quando capita e partecipo a un programma televisivo in Giappone, quindi tutta una serie di attività. Cosa fai nel programma televisivo in Giappone? Allora, è un programma abbastanza educativo, almeno vorrebbe esserlo, credo, della televisione nazionale e ci sono a ogni puntata 8 stranieri che sono invitati a esplorare un aspetto della cultura giapponese e paragonandolo al proprio paese capire se è valido, è bello o meno. Infatti si chiama Cool Japan questo programma. È molto divertente perché mi permette di vedere dei lati che insomma se non venissero presentati in un modo così da dei giapponesi non mi sarebbero mai capitati agli occhi. Scusa Flavio, ma tu di mestiere praticamente fai l'italiano in Giappone? Beh sì, praticamente sì. Beh, mi piace di mio già insomma vivere e conoscere le culture, quindi mi piace anche far conoscere la mia cultura, credo sia uno scambio interessante. Senti, dimmi una cosa, in sintesi, cioè, scegliendone una, qual è una cosa che ti fa essere contento di vivere in Giappone piuttosto che a casa tua in Italia? Credo la curiosità dei giapponesi, Cioè è molto facile vivendo qui riuscire ad avere degli scambi molto, molto significativi. I giapponesi sono molto interessati a un po' tutto alla fine, dalla cucina alla letteratura, alla musica, ai film, e sono molto aperti. Questo mi piace molto. E qual è invece la difficoltà più grande? La difficoltà più grande forse è quella di scalfire un po' la barriera che i giapponesi sentono tra loro e gli stranieri. E dico questo anche perché in qualche caso è una barriera anche positiva per alcuni, nel senso che molto spesso vedono gli stranieri come molto, molto positivi in sé. Quindi sono molto gentili, troppo accondiscendenti a volte con gli stranieri. Tu che farai? Chiudiamo così, ti sposi lì, ti sei già sposato lì, rimani lì. Io penso che rimarrò qui anche se non sono sposato, ma per adesso diciamo che non mi sono ancora stancato, non mi sono annoiato e ho ancora tantissime cose che mi sembra di poter scoprire e imparare qui. Quindi diciamo quando smetterò di divertirmi conoscendo delle nuove cose ogni giorno, forse comincerò a pensare di poter tornare in Italia o andare in qualche altro paese. Va bene, Flavio, ti ringraziamo e grazie per averci raccontato il tuo Giappone. Sono andato in India per mia scelta. Di solito i giornalisti cominciano come stringer in India, poi se sono bravi vanno a Washington. Io ho fatto il contrario, sono finito in India perché secondo me l'India è l'origine di tutto, è il punto di partenza di tutto. L'India è l'inizio di tutto, diceva Tiziano Terzani, e noi così, quasi per puro spirito di contraddizione, invece chiudiamo questa puntata andando in India, dove al telefono con noi c'è Giovanna. Benvenuta a Giro di Vita. Buongiorno. Giovanna, tu lo dico per i nostri ascoltatori, diciamo sei in India, ma hai avuto diciamo un approccio all'Oriente che è iniziato già dai tuoi studi, già da quando avevi un'altra vita in Italia, è vero? Sì, io mi sono laureata in lingue orientali a Venezia negli anni Ottanta, ho fatto per un po' di anni la traduttrice di giapponese, guida turistica, tutte queste robe qui. E poi verso, avevo 35 anni circa, ho cominciato invece a fare la cuoca, nel senso che ho ripreso un po' a fare la cuoca perché era una cosa di famiglia, per cui insomma mi sono ritrovata dentro a un'altra vita di un'altra vita, ecco. E fare la cuoca però ti ha permesso di andare a lavorare in paesi lontani, hai vissuto a Tokyo, in Cina, in India. Come hai scelto questi paesi? Come ti sei spostata? Sono spostata per una questione, come dire, di non perdere quello che avevo studiato, da un lato, dall'altro per una questione anche di conoscenza fondamentale su tutta una serie di processi anche logici, e anche di cucina, se vogliamo. Quali sono tra questi posti, diciamo, quelli che secondo te sono più adatti per un italiano che volesse approcciare l'Oriente? Cina, Giappone o India, dove sei adesso? Quella più facile è l'India, uno perché è una questione anche storica, non ha avuto una dominazione inglese, si parla inglese, è la prima o la seconda lingua l'inglese. Andare in Giappone è già più complicato perché non tutti parlano l'inglese, anzi sono pochissimi quelli che parlano inglese, per cui bisogna sapere il giapponese, non parliamo poi della Cina che lì insomma bisogna sapere il cinese, cioè nel senso bisogna sapere il mandarino se uno come dire, ha studiato, altrimenti i vari dialetti delle varie regioni. E senti, tu in India esattamente dove ti trovi e che tipo di India vivi quotidianamente? Io lavoro per la compagnia Taj, che è una compagnia alberghiera indiana, il cui proprietario è il signor Tata, che è quello, il multimiliardario che ha tutto, qua in India fondamentalmente, una sorta di Agnelli, molto più ricco di Agnelli però. Lavoro al Taj Coromandel di Madras, adesso si chiama Chennai, comunque era la vecchia Madras, quindi sono a sud dell'India, nello stato del Tamil Nadu. Ed è un tipo di India, diciamo, forse più semplice, più vicina alla nostra mentalità? Diciamo che tutto il sud dell'India sta avendo in questi anni, si sta costruendo il boom economico indiano. È un po' il nord-est italiano. Dimmi un consiglio per chiudere, una cosa che bisogna evitare, una gaffe magari che si fa di solito, un atteggiamento che è meglio evitare approcciando gli indiani. Quello di essere arroganti, quello di fare i bianchi, ecco, di essere molto friendly come lo sono loro. Giovanna, io ti ringrazio e bocca al lupo per la tua vita in India e grazie per essere stata con noi. Grazie mille anche a voi. E vabbè, io ovviamente come sempre poi sento queste testimonianze, questa tranquillità, questa felicità in chi ha cambiato vita e mi viene voglia di farlo. Quindi adesso io torno a casa, mi ristudio i miei DVD di Bruce Lee, mi riguardo tutti i miei cartoni animati giapponesi, tolgo la cera, metto la cera e magari prima o poi ci vado anch'io a vedere com'è. Io vi saluto qui, Giro di Vita, @radio24.it è la nostra mail, Giro di Vita è anche la nostra pagina su Facebook. A domani. Ringrazio Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.